America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Abbiamo la nostra pagina culturale del venerdì e dunque vi propongo, un po' a sorpresa, intanto uno spaccato da un film che ha fatto storia. Future's all yours, you lousy bicycles. Il film, forse molti di voi non l'avranno riconosciuto, ma è Butch Cassidy and the Sundance Kid, con Robert Redford, con Paul Newman e con Catherine Ross, un film che ha avuto un tale successo che tra l'altro è stato rifatto proprio l'anno scorso, c'è stata una nuova edizione di questo film. Perché vi racconto di questo film? Perché l'altra sera sono stato, parlando di fondazioni, parlando di non profit, parlando dell'importanza della cultura, anche in seguito alla campagna lanciata dal Sole 24 Ore, sono andato a un evento tipico del non profit americano, l'evento che si è tenuto a Avery Fisher Hall a Lincoln Center a New York, un teatro che ha fatto il pienone, c'erano oltre 2700 persone, ha raccolto 2 milioni e mezzo di dollari e c'erano una gran quantità di artisti: Jimmy Fallon, Tina Fey, John Gribben, Jay Gyllenhaal, Paul Simon, Natasha Yvette William, Trisha Yearwood. Insomma, da una parte c'erano gli artisti che donavano il loro tempo, dall'altra gli spettatori che comprando un biglietto facevano un regalo. Cosa c'entra tutto questo con Butch Cassidy and the Sundance Kid? Beh, c'entra perché questa celebrazione al Lincoln Center era in onore di Paul Newman e del suo sogno, della sua grande idea di beneficenza, questa associazione che si chiama The Hole in the Wall, The Hole in the Wall Camp, che sono dei campeggi per bambini che purtroppo nella loro vita hanno avuto sfortune di vario genere, malattie congenite, malattie patologiche, cancro, e che trovano un momento di sollievo in questi campeggi in America e anche all'estero, perché ce ne sono vari, ce n'è anche uno in Italia, sono 16 in tutto il mondo. In Italia si chiama Dynamo Camp ed è in Toscana. Dunque, perché si chiama Hole in the Wall? Beh, perché Hole in the Wall era il nome della gang in questo film di Paul Newman e Robert Redford. E dunque Paul Newman si è ispirato così a questo nome per cercare di fare qualche cosa che probabilmente quando ha cominciato poteva essere un sogno di difficile realizzazione. Dunque soltanto qualcuno con la forza, l'energia e la creatività di appartenere a una gang di rottura poteva riuscire a realizzare un progetto di questo genere. Paul Newman ci è riuscito. Sentiamo in questa sua registrazione perché lo ha voluto fare. I have been asked on several occasions to try to explain what motivated me to help build the Hole in the Wall gang camp. Ecco, devo dire, la spiegazione di Paul Newman è davvero straordinaria, perché questo grandissimo attore che purtroppo ci ha lasciato, un simbolo di Hollywood e dei film americani, con la moglie John Woodward, hanno rappresentato davvero una delle coppie storiche di Hollywood. Ecco, cosa dice Paul Newman? Dice: mi hanno chiesto varie volte di spiegare perché ho avuto questa idea, perché mi sono lanciato in questo progetto, e forse dovrò deludervi, perché non c'è stata un'epifania, non c'è stato un evento straordinario, non c'è una storia di rottura, c'è soltanto la realizzazione che dovevo parlare della fortuna e della sua antitesi. Dice: io ho avuto molta fortuna nella vita, straordinaria fortuna, e dunque lo riconosco, ho voluto riconoscerlo soprattutto davanti alla brutalità che invece c'è nella vita di molti bambini. Ecco, uno degli artisti che ha suonato in questa serata davvero entusiasmante, uplifting come si direbbe in America, qualche cosa che ti tira su il morale, c'era anche Josh Groban, lo avete appena sentito in una sua interpretazione di Smile, ma non c'erano soltanto cantanti, c'erano anche i ragazzini che parlavano, che intervenivano, che interpretavano delle parti, ragazzini ospiti di questi camp, ragazzini che purtroppo così hanno sofferto e che riuscivano comunque a trovare la forza, l'energia e soprattutto il buon umore per partecipare a questa serata. Quello che mi ha colpito di più è Joshua Berger. My name is Joshua, and on behalf of the entire organization, I want to thank you for being here. Many of us have traveled from all over the world to be here for this very special event. I know you're thinking, wow, what's his story? He's got good beauty man looks. Ecco, Joshua Berger, avrete sentito la sua voce e avete sentito la gente che ride, no? E lui dice, voi vi chiedete se sono single, se posso essere un buon partito, cosa sto facendo qui, come mai sono qui, chi sono? Insomma, crea un'atmosfera alquanto gioiosa. Ecco, chi è Joshua Berger? È un ragazzino che purtroppo quando era 4 mesi e mezzo nella pancia della mamma, quindi era ancora un feto, era stato diagnosticato con una sindrome rarissima che si chiama teleosteogenesis. Ci sono pochissimi casi e ci sono, pensate, soltanto 4 o 5 sopravvissuti a questa sindrome nel mondo. La raccomandazione dei dottori era stata quella di fare un aborto, perché avevano detto questo feto non sopravviverà. I genitori hanno deciso di andare avanti e lui con una battuta dice, beh, per mia fortuna, quindi anche lui in qualche modo, nonostante la sfortuna di avere questa condizione, si ritiene fortunato. Qual è la sua condizione? Beh, è privo di gambe, è minuscolo, non ha potuto svilupparsi e parla con una voce particolare, ha delle difficoltà respiratorie, quindi aveva dei tubicini al naso e si è presentato neppure su una sedia a rotelle, ma si è presentato su una specie di lettino mobile che lui guidava, controllava con grande agilità e ha tenuto la tensione del pubblico raccontando barzellette, muovendo le mani, l'espressività di queste sue mani che si muovevano era davvero straordinaria. Questo ragazzo oggi ha 21 anni, a 16 anni è andato per la prima volta nel camp dove dice ho trovato la gioia, il piacere di vivere con gli altri e con ragazzi che come me non avevano condizioni facili per affrontare la vita. Vi avevo detto che nella serata sono stati raccolti 2,5 milioni di dollari, è stato anche annunciato il cambiamento del nome. The Hole in the Wall non si chiamerà più The Hole in the Wall, ma si chiamerà Serious Fun. Perché? Perché Paul Newman diceva che il divertimento va preso seriamente, molto seriamente. Questo straordinario attore ha creato una sua fondazione separata da The Hole in the Wall, che è una fondazione che raccoglie fondi attraverso la vendita di prodotti alimentari. Ha cominciato soprattutto con dei condimenti per le insalate, un semplice olio, aceto, sale, pepe con un po' di mostarda e poi tutta una serie di varietà. Ha creato un vero e proprio business alimentare, adesso fa anche le pizze, pensate. Ebbene, il profitto netto di questa attività alimentare iniziata da Paul Newman è stato l'anno scorso di 34 milioni di dollari. Complessivamente la sua fondazione ha distribuito 300 milioni di dollari, la sua fondazione che tra l'altro appoggia anche The Hole in the Wall, che è una costola, se volete, delle varie attività che la fondazione di Paul Newman poi appoggia. E dunque tutto è partito dall'ispirazione di questo film, un film che tutti conoscerete, che vi invito a rivedere o a vedere nella sua nuova versione, un film che non soltanto ha originato questa attività benefica, questa attività culturale, perché per me creare un camp dove i ragazzini possano andare, stare insieme, fare della musica è comunque un'attività culturale, ma ha anche ispirato l'altro protagonista, Robert Redford, al Sundance Festival. Dunque, un film che ha fatto epoca per molte ragioni. Fra poco ne vedremo anche un'altra. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, di nuovo legata al film con cui ho aperto la trasmissione. Non possiamo che dedicarla a Burt Bacharach, che ha scritto per Butch Cassidy and the Sundance Kid questa canzone che vi porterà mille ricordi. Rain drops keep falling on my head. I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Buona Pasqua, goodbye and get going! America 24.